L'ultimo passaggio, capisco il pomeriggio, avete già sentito una cosa al mattino. Mi rendo conto, ma insomma, siamo in discesa, perché le cose più spesse le abbiamo già dette. Cosa faccio? Sì. Bene. Io seguo i comandi. Allora, ci rimangono il punto 5, 6, 7, poi le conclusioni dove riprendiamo Evangelii Gaudium, che poi era nel titolo della conversazione. Allora, il punto 5 ci ricorda questo, ma ce l'aveva già ricordato Gesù a suo tempo, e che Gesù annuncia il regno, non se stesso. Allora, nel punto 4, la relazione tra l'evento Cristo e l'uomo, è nella vita, insomma, che cosa ci può unire? La vita. Credere nell'atto promettente della vita, questo accomuna uomini, donne, credenti e non credenti. Il punto di partenza per far incontrare i due mondi può essere veramente quello, la vita. Del resto, se andiamo a vedere la scrittura, l'ho appena anticipato e Teobald ce lo ricorda nel suo testo, Gesù, ripeto, annuncia il regno, non se stesso. È il messaggio centrale dell'annuncio di Gesù. Il regno mobilita tutto il suo ministero, tutte le sue azioni, le sue parole. Sono la manifestazione della signoria di Dio, quella signoria che ha creato il mondo, quella signoria che si è espressa in lui perché è risorto. L'ultima parola con Gesù non è stata la morte, è stata la vita, quella signoria che si è vista in lui nei miracoli, ma nella risurrezione, quella signoria alla fine, quando il mondo finirà. Allora, Teobald dice, ma guardate che la categoria del regno potrebbe essere un terreno fertile, fertile su cui incontrarsi, credenti non credenti, qui insieme, no? Non visti opposti. Guardate che forse dovremmo rivalutarla questa categoria del regno, molto più di quanto immaginiamo, perché magari Gesù è divisorio. Lui dice che il regno no. Adesso vi spiego in che senso, vi spiego, provo a dire quello che ho capito io, più che spiegare. Allora, proviamo a vedere il secondo passaggio di questo punto 5. Sono un po' insegnante, ne mi rendo conto, però faccio così. Ho davanti della gente a scuola che se non sei un attimino così li perdi, no? Allora poi mi rimane poi dentro questa cosa. E quel secondo passaggio di questo punto 5 è quello riferito il passaggio al versante nascosto del regno di Dio, cioè ci sarebbe un regno di Dio nascosto ogni qualvolta l'uomo perdona e ricomincia, ogni qualvolta l'uomo crea legami, ogni qualvolta l'uomo sostiene la libertà dell'altro e promuove un accordo tra la mia libertà e quella dell'altro. Che meraviglia! Perché a noi viene in mente il Padre misericordioso, ogni qualvolta l'uomo perdona, a noi viene in mente e crea legami, immaginiamo i legami che ha creato Gesù al suo tempo, poi in certi momenti è stato anche molto, molto, molto forte, tagliente nelle sue affermazioni, però ama il prossimo tuo come te stesso, questo non devo ricordarvelo. Ogni qualvolta si rispetta la libertà dell'altro, l'altro così com'è. Ecco, prima di perdonare l'altro, non devo perdonare me stesso? Sì, certo, questo è un percorso, ama il prossimo tuo come te stesso, c'è sicuramente un versante quanto a se stessi e poi un versante quanto agli altri, certo, essere misericordiosi con noi stessi non è cosa da poco, è un percorso anche quello, non è automatico che si possa dire, che si possa fare. Allora, lui lo chiama il versante nascosto, cioè c'è un regno di Dio che si sta esprimendo attraverso molti credenti che vivono la fede in Gesù Cristo, la vivono chiaramente, lo dicono, lo esplicitano, no, sono in linea con... Ma c'è un regno di Dio nascosto che dovremmo guardare un po' di più, che è il regno di Dio anche quello. E cioè, ogni qualvolta l'uomo perdona, ricomincia le cose che ho già detto. Allora, lui dice, Teobald, nel terzo passaggio di questo punto 5, lui dice che il regno di Dio e la società, diciamo società, Angelini amerebbe più cultura, va bene, stiamo dicendo la stessa cosa, che il regno di Dio e la società, trattino cultura, co-nascono quando si conoscono. Se l'avete già sentita questa cosa, magari dal professor Albarello, insomma, no? Ecco, o magari da altri, da vostra lettura. Allora, conascono quando si conoscono, cioè conascono nel senso di un reciproco arricchimento. Che bello pensare che il regno di Dio e la società possano arricchirsi reciprocamente. Mi riferisco a una società che magari non ha espressamente un riferimento a Dio, chiaro, ecco, no? Però lavora in un certo modo, poi vedremo anche come. E allora, conoscono quando si conoscono, quando entrano in relazione. Vedete come superiamo le dicotomie dentro, fuori, vicini, lontani, credenti, non credenti, che non aiutano molto. Quando la Chiesa si mette a servizio dell'altro, nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, favorisce questo incontro tra regno di Dio e società. Cioè, insomma... In certi ambienti lavorativi, quando hai a che fare con gente che non è credente, non è che ti mette a dire Gesù morto risorto, Gesù morto risorto, Gesù morto risorto, Gesù morto risorto. Ti dicono, ti danno il matto, no? Evidentemente. E com'è che allora il lato promettente della vita, il lato affidabile di Dio può venire fuori da me? Nelle relazioni con gli altri, senza per questo stare a dire Gesù morto risorto? Non stiamo dicendo che non si debba dire. Ci siamo capiti, insomma, no? Chiaro che lo si debba dire, soprattutto in certi contesti. Però magari entriamo in contatto con della gente e mi diceva qualcuno che solo sentire Gesù scappa, non ti ascolta neanche più. Allora, quando la Chiesa si colloca alla soglia delle libertà umane e favorisce la chiamata personale all'incontro con Cristo, realizza la sua natura, favorisce la chiamata personale. La chiamata personale di Cristo magari la cogli, l'ascolti, la percepisci quando dentro di te qualcuno ha già lavorato sul senso che puoi dare alla vita, sul significato che puoi dare alla vita. Ecco il discorso di Angelini che viene fuori. Ti ha preparato quel terreno che poi può scaturire in una fede cristica, ma non è detto che scaturisca, perché anche ai tempi di Gesù succedeva così, lo vediamo tra un attimo. Quindi allora vediamo meglio queste due realtà, quella del regno di Dio e quella della società. Da una parte il credente, che è consapevole di portare dentro di sé l'immagine di Dio, che è consapevole di portare dentro di sé l'immagine di Dio. Cosa vuol dire che siamo fatti a immagine e somiglianza? Cosa vuol dire? Vuol dire che portiamo dentro di noi qualcosa del Dio da cui noi proveniamo, e il nostro Dio è Trinità, quindi è ovvio che noi siamo aperti all'altro, perché se portiamo l'immagine di Dio dentro di noi, il nostro Dio è Trinità, portiamo la relazione dentro di noi. È naturale che sia così. E allora il credente, che è consapevole di ciò e si fida di un Dio affidabile, costruisce la vita, attenzione a questo passaggio che è fondamentale, costruisce la vita, e qui cito Stella Morra, costruisce la vita non appoggiandosi su ciò che possiede, che capisce, che sa, ma decentrandosi e appoggiandosi su quello che non c'è ancora, sulla vita in più che io non mi posso dare da solo, che è lo Spirito Santo, il dono che viene da altrove. Ecco, vuol dire che io che sono credente, che porto l'immagine e somiglianza di Dio, che ho la fede in un Dio affidabile perché ho deciso di affidarmi in Lui, non poggio su ciò che tocco, che mi dà sostegno, ma mi appoggio su quello che non tocco, non so, non conosco, è affidabile, mi viene dato, è lo Spirito Santo, da qualcuno che viene d'altrove. Quindi io mi sbilancio e mi appoggio lì, su quello che non tocco, non su quello che tocco. è un percorso, è un percorso. Corso che richiede il dono della, insomma, la forza dello Spirito Santo, appunto per questo ci è stato dato perché non saremmo stati capaci da solo, di fidarsi non su quello che tocco, che vedo, su cui appoggio i piedi, ma su quello che non tocco, non vedo. Io mi appoggio lì, che è lo Spirito Santo, un dono che viene da altrove, che mi viene dato, che non mi posso dare. Ma più mi fido di quello e più mi accorgo che la verità di me sta venendo fuori meravigliosamente e io fiorisco. Se imparassimo un po' di più a fidarci, vedremo delle cose meravigliose che succedono e ci accorgiamo che chi riesce a fare questo fa cose grandi. Prego. Però questo percorso potrebbe essere estrapolato dal contesto cristiano. Questo è un percorso che noi... ti appoggi o dove? Sulla fortuna? Sul caso? Perché non dipende, io mi permetto il tu perché vedo che qui ci diamo tutti tu, scusa, perché quello che compete a te, che riguarda te, che tu sei capace di, che capisci, che sai, che fai, questo sì, ecco, però fidarti su quell'altrove, che per un credente è proprio lì, no? È il dono dello spirito che viene da fuori, dall'altro, dall'alto, insomma, da fuori di me. Ecco, fidarsi di questo appoggiandosi su quello che non c'è ancora, si chiama eccedenza in teologia della verità, che mi attira e che che dice la verità di me. Io lo so umanamente, perché l'abbiamo detto nella prima parte del percorso, no? Quante cose abbiamo capito grazie agli altri di noi. Noi questo lo sappiamo, che la verità di noi stessi ci arriva dal confronto, ma lo sappiamo questo, lo abbiamo sperimentato nella vita, cioè, delle volte qualcuno ci ha anche un po' offeso nel dirci te, oh, ma quando fai così non ti sopporto, no? Noi lo capiamo questo, lo sappiamo che umanamente accade così, per quello che non è così difficile pensare che da un altro possa arrivare la verità di me. E mi appoggio in quel di più. E sì, può essere il caso, la fortuna, non lo so, non riuscirei a dare altri nomi. L'energia vitale. Le religioni orientali qualcosa su questo ce lo dicono. Sarebbe interessante percorrere questo solco anche, no? Che qualcuno so che fa, qualche autore cristiano fa anche. Perché insomma, no, se tutti quanti si sta guardando Dio, il Dio di Gesù Cristo, se tutti quanti si sta guardando Dio, stanno guardando Dio anche le religioni orientali, quindi qualcosa potrebbero aiutarci a capirlo anche. È tutto da percorrere, quella che non vuol dire che chi non è credente è meno, Appunto, io sì, e sì, provo a dirlo meglio, il credente comunque, il non credente sa come chi è credente, in quanto uomini e donne, che la verità ci viene data dall'altro, quindi non stiamo togliendo niente al non credente, no, questo è di ogni uomo, di ogni donna. Ecco, chi è credente, questa fiducia nell'altro la apre alla fiducia nel Dio di Gesù Cristo, perché lì c'è l'uomo, autenticamente uomo. I teologi, quelli che la sanno lunga, dicono che quando Dio ha creato, l'uomo lo ha pensato come Gesù Cristo. Quando Dio ha creato, l'avete già sentita questa cosa forse da qualcuno, quando Dio ha pensato l'uomo lo ha pensato come Gesù Cristo. Poi è chiaro, questo è venuto bene solo in lui, evidentemente, no? Detto male, è accaduto solo in lui. Noi siamo alla ricerca, no? Di questa coabitazione serena tra la dimensione umana che è in noi e l'immagine di Dio che ci portiamo dentro. Però ci vuole tutta la vita e poi non basta, evidentemente, no? Perché, insomma, perché non siamo vero Dio e vero uomo, come era Gesù Cristo. Però ecco, non lo direi nel termini del di meno, non lo direi. Del resto, lo dico tra un attimo, anzi, tra proprio qualche minuto. Ecco, allora, una componente è quella del regno di Dio, di cui abbiamo provato a dire qualcosa, dove ci sono i credenti, che quello che ho appena detto. L'altra componente, perché sono i due, no? In termini di analisi, l'altra è quella del vivere insieme, chiamiamolo così, sia la cultura sia la società, no? Ecco, è bene dire che il regno di Dio non coincide con la Chiesa, ma questo ve l'hanno già detto, che tutti gli uomini si trovano nel perimetro della grazia di Cristo. La grazia è per tutti. Questa presenza di Dio accanto ad ogni uomo, in ogni uomo, attraverso il suo spirito, è per tutti ed è di tutti, non è soltanto per qualcuno che lo sceglie. Questo è importante. C'è un mondo che insomma contrassegnato anche dalla violenza, dalle incomprensioni, che sceglie magari di non stare con Dio. Ma c'è anche un mondo, in questa società, in questa cultura, che è caratterizzato dalla gratuità, dalla bontà, che vive relazioni di pace, che fa quello che dicevamo prima, no? Perdonare e ripartire, piuttosto quello che abbiamo detto, no? Cioè il mondo intorno a noi è così. Del resto, se stiamo a guardare la vicenda di Gesù, non tutti si sono convertiti, Tutti quelli che hanno incontrato Gesù, a noi risulta che tutti quanti lo abbiano seguito. Noi sappiamo che alcuni chiamati simpatizzanti lo abbiano seguito per un po', poi hanno fatto la loro strada, hanno goduto della sua forza, della sua energia, della sua vicinanza, della sua presenza, sono stati guariti, ecco, nello spirito, nel corpo, ma non tutti, i dodici sì. Sicuramente i discepoli sì, ma non tutti. Cioè già ai tempi di Gesù, insomma, no? C'erano quelli che e quegli altri che, ma non è meno o più, modi diversi in qualche modo. Quelli che hanno incontrato Gesù, che non hanno fatto parte del gruppo dei suoi discepoli, ad esempio. Il passaggio dalla fede e fiducia elementare nell'atto promettente della vita a quella in Gesù, beh, è un passaggio che mette in gioco la nostra libertà, se lo vogliamo fare oppure no, insomma, mette in gioco noi stessi. Non è obbligatoria, non è obbligatorio questo passaggio. Noi possiamo sperarlo per chi non è credente, perché noi lo siamo, ma non possiamo imporglielo. Ecco, la libertà di ognuno deve essere rispettata fino in fondo. Questa libertà può mettere in campo un pesach, a proposito del fatto che è la Domenica delle Palme, un pesach, che vuol dire un passaggio, no? Come per gli ebrei, anche per i cristiani. E la Chiesa, se fa questo, cioè se procede in questo modo, rispettando le libertà altrui, ecco, aiuta il regno. Direi che la Chiesa ha questo ruolo, sostanzialmente. Passiamo al sesto punto, che è molto più veloce degli altri, insomma, siamo tutti consapevoli che la Chiesa non sempre lo stia facendo questo, no? Io lo chiamerei così, la trasformazione della Chiesa, lo strumento Chiesa, la Chiesa, oggi non sempre è strumento del Regno. Che cos'è che ostacola tutto ciò? Teobald dice: una gerarchia ecclesiastica reticente al cambiamento, in una omelia a Santa Marta, Francesco, commentando Luca 13, 18, 21, dice: granello di senape, lievito, regno, queste cose qua, dice: ci vuole il coraggio di gettare sto granello, di mescolare sto lievito, ci vuole il coraggio. A volte si preferisce una pastorale di conservazione, quel che c'è, conserviamolo e portiamolo avanti. Lui dice: il coraggio di gettare il granello e di mescolare il lievito. Dunque, allora, una gerarchia ecclesiastica reticente al cambiamento, la convinzione che, vabbè, insomma, no, basta seguire la coscienza e va bene questo, no? Ma sì, una coscienza formata, una coscienza educata, una coscienza nutrita, insomma, no? Quasi come, ma qui anche magari anche dei cristiani che potrebbero gettare quel seme e mescolare quel lievito, ma non lo fanno ma insomma, lui dice anche, c'è una distorta concezione della tolleranza che scoraggia la correzione fraterna e anche la denuncia. Sai, tutti dobbiamo rispettare l'opinione di tutti, e magari non hai il coraggio di dire: ma io però penso questo. nel rispetto, ma te lo dico che penso questo, che magari è quel granellino che hai gettato, quel lievito che stai mescolando. Quindi dice, attenzione a dire banalmente, ma sì, ognuno ha la coscienza, segue la sua, appunto. Sì, però la coscienza formata, educata, insomma, no? E così anche rispettare la tolleranza, ma qualche volta, insomma, anche la parola bisogna anche esprimerla. Oppure dice anche l'equazione missione proselitismo, per cui la presa di posizione pubblica di una comunità religiosa in un territorio su un tema diventa il pretesto di un'accusa di proselitismo. O la Chiesa non parla, o se parla, però fa politica. Beh, non lo so, vediamo un attimino che cosa è stato detto, in che contesto, in che modo, però insomma su certi temi è anche giusto che la Chiesa, mi permettete, faccia il suo mestiere, tra virgolette, no? Per cui se ha da dire per incoraggiare la riflessione è giusto che lo faccia. Ecco, allora concludo questo sesto punto dicendo che la Chiesa, secondo Theobald, dovrebbe riscoprire, dovrebbe attivare una pedagogia della riforma. Lui la dice così, lui dice anche può darsi che si debba arrivare anche a un ripensamento della Chiesa suddivisa in modo territoriale come adesso. Le parrocchie sono nate nel Concilio di Trento e hanno funzionato, per carità, hanno funzionato. La domanda è se adesso questo strumento può ancora dire qualcosa, o se ha solo bisogno di essere rivitalizzato, o se dobbiamo pensarla diversamente anche con la diminuzione dei sacerdoti. Lui dice, Theobald, non angosciamoci rispetto a questo sfilacciamento territoriale. Questo magari può aprire spazi di libertà, di creatività per le comunità, si possono magari aprire nuove porte, trovare altre forme di cristianesimo. Non è detto che sia male. Certo, la paura c'è che crolli tutto, no? Lui lo dice, lo capisco, però magari si aprono delle risorse nuove. Visti i tempi, grazie, e concluderei dicendo che Stella Morra nel suo libro fa una proposta pratica e concreta, no? Theobald ha concluso dicendo conoscono quando si conoscono, quindi non sospetto a partito preso, ma dialogo, ecco, no? tra i mondi, ecco, tra un regno di Dio e tra una società che rinuncia a Dio, però su certi temi ci si può capire, e capire anche bene. Questo tema che può unire i due mondi è quello della misericordia. Stella Morra dice: la misericordia può essere quello che può superare la dicotomia, il contrasto tra credente e non credente, perché la misericordia è un processo, cioè non è che io imparo punto, ma la metto anche un po' alla prova, no? La mia capacità di essere misericordioso è un processo più che un'appartenenza. Lei dice che anche chi non è credente sa cosa vuol dire essere misericordioso, non è un termine appannaggio esclusivamente dei credenti, per cui ci si potrebbe capire sul tema della misericordia, quanto è importante essere misericordioso, quanto è difficile accettare la misericordia di un altro. Ecco, intorno al Dio misericordioso possiamo imparare molte cose, e la misericordia può essere la base per cominciare a lavorare insieme, anche se diversi. Una pastorale misericordiosa, lei dice, no? Può superare le contrapposizioni, davvero può essere generativa. Ecco, e consiglia, insomma, magari di rifletterci un po' di più su questo aspetto della misericordia. In conclusione, riprendo il titolo. Il titolo, come avete notato, è l'inizio, è il titolo dei punti 180-181 dell'Evangelii Gaudium. Sono due punti che lascio alla vostra lettura. Vi farei soltanto presenti alcuni passaggi che ritengo importanti. Lui dice: il regno è il regno che ci chiama. Bella questa cosa, no? Che ci attrae, no? Che ci fa guardare dentro noi stessi. Bello questa idea che il regno ti chiami in qualche modo, no? Ti arrivi in qualche modo. Francesco dice, lui sostiene che... Scusi, com'è? È proprio all'inizio, dovrebbe esserci il titolo, il regno che ci chiama, ecco, lui dice, quando Dio riuscirà a regnare tra di noi, allora lo spazio sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità. Attenzione a questo passaggio, il regno di Dio genera la storia, non la cronaca. Bellissimo, bellissimo, perché la cronaca è un elenco di eventi, ma non c'è narrazione che li tiene uniti, la storia sì. Lo sentiamo dalle persone che hanno qualche anno in più, che ti raccontano i tempi della guerra e quello che facevano in quel periodo, piuttosto quando uno ti racconta la propria storia attraverso gli amori, i figli, le amicizie e quant'altro. Ecco, lui dice che il regno di Dio genera la storia, non la cronaca. Si costruisce giorno per giorno, i suoi frutti già si vedono, ma non sono tutti, c'è dell'altro. Ecco, la missione della Chiesa è quella di aiutare le persone a rispondere, la missione della Chiesa è quella di aiutare le persone a rispondere ad una voce che dovrebbe essere coltivata, e io spero a scuola di poterlo fare, a rispondere ad una voce che ti dice tu puoi, tu puoi, tu puoi. Se la Chiesa fa questo, serve assolutamente il regno e la conascita del regno con la società. Alla fine Francesco dice, lascia che il regno di Dio si radichi nel tuo cuore e avrai la pace. Grazie. Grazie. Abbiamo più di mezz'ora di tempo per dialogare con Monica. Mio. Allora, siccome sono reduce da un incontro con il nostro vescovo, eravamo 15 sacerdoti ritornati dalle missioni, qualcuno è stato 20 anni, altri 30, io 38, e non so se ho terminato. Io ti ho incontrato prima che tu decidessi di partire, ti ricordi? No. Quando eri a Roma? C'eri anche tu quando siamo andati sul Sinai? Che c'era anche Monsignor Do. No. Ti ricordi che siamo andati fin su quella mattina? Ma dicevo, siccome hai detto lì che la Chiesa è uno strumento, punto interrogativo, ancora valido come parrocchia, allora eravamo dei sacerdoti che hanno lavorato in America Latina, altri in Oriente, altri in Africa. E insomma c'era una visione abbastanza uguale a tutti, questa chiesa oggi non va più avanti perché è già morta, solo che non ce ne accorgiamo, le strutture grandi rimangono, se tu vivi a Roma, come mi è successo per 7 anni, dici qui siamo eterni, insomma, la Giovedì di Santo, tutto pieno, tutta la gerarchia piramidale, né? E poi anche i preti, poi anche le suore, e poi gli ultimi, i laici che non servono a niente. Vabbè. E il nostro vescovo doveva dirci qualcosa, oltre che ringraziarci, ci aveva anche le sue riserve, e però dice, le strutture sono necessarie, i codici sono necessari, i canoni sono necessari, se no, ma non è che si metta che le strutture sono necessarie, e quindi dobbiamo mantenere quelle di prima, se sono necessarie se ne creano anche delle altre, se ne creano delle nuove, e non so, noi abbiamo vissuto momenti interessanti 20-30 anni fa, quando le suore erano parroco, quando laici erano parroci, quando gli assistenti, non è assistente, al matrimonio cosa c'è? Testimoni qualificati del matrimonio erano laici. parrocchie con 30.000 abitanti, nessuno si lamenta che non ci sono più preti. È sufficiente un prete, anzi, forse anche di troppo, eccetera. No, troppo no. No, ma dico sì, nel senso che sì, sì, certo. Avrebbero due, tre o sì, quattro, vabbè, certo, oppure certo. Anche uno. E niente, siamo rimasti così a guardarci. Ed è vero, però fa paura a tutti i credenti, anche a tutti noi preti, che è quello in cui abbiamo creduto per 50-55 anni. È valido, era valido, forse non lo è più, ma la paura è più grande della, della novità. E non si può, i preti sposati o gli sposati che diventano preti, tutte queste cose sono, cioè, non so, sembrano ancora cose che devono arrivare, che chissà, fra 10, 30, 100 anni, un secolo. Cosa ti manca di essere prete? Solo la tua volontà. Ma insomma, un altro prete potrebbe dire le stesse cose, o più, o meglio, o peggio. Non so se questa divisione ancora tra uomini e donne in questo modo, proprio, io direi, indecente con la cultura di oggi. Vabbè. Grazie, non aggiungo altro, direi. Sono... Grazie. Da quanto ho sentito stamattina e da quanto hai detto tu, ho l'impressione, penso che sia... che comunque il regno di Dio è un continuo dinamismo, no? È un continuo. Ma perché la Chiesa non ci crede in questo? Non che ci crede. Perché credesse in questo dinamismo sarebbe dinamica anche la Chiesa. E sarebbe molto elastica su certi punti, su certi. Cosa che non mi sembra. Ma guarda, ti risponderei riprendendo quella frase: una gerarchia ecclesiastica reticente al cambiamento, anche a livello teologico, lo vediamo, insomma, no? Come ci sono certi preti che impostano l'omelia, o anche certe scuole teologiche che impostano i ragionamenti con una teologia che è ancora dall'alto, e dall'alto e non dal basso, a proposito di un approccio metafisico, un approccio antropologico o fenomenologico. Che rischia di parlare solo a se stessa o comunque a un ristretto numero. C'è ancora questa, c'è ancora questo, secondo me, no? Senza colpevolizzare nulla, nessuno, insomma, constatare che la situazione è questa, e non so, la paura, no? Del cambiamento, forse, di lasciare ciò che conosciamo e sappiamo e fidarci di quel pezzetto che non gestisci, ma è lì che lo Spirito Santo sta agendo, e quindi fidarti che, insomma, no? Insomma, farà lui. No? Lo Spirito Santo, perché giustamente deve fare anche il suo mestiere, insomma, ciascuno faccia il suo, no? Se non si fida la Chiesa, dobbiamo fidarci noi. No, vabbè, però c'è proprio forse qualcosa a livello psicologico, no? Siamo in questo siamo uomini e donne, con la difficoltà anche, no? A cambiare, no? Certe abitudini, a cambiare certi approcci. In questo, insomma, è fatta di uomini, di conseguenza in qualcuno c'è questa fatica, no? Direi. Un uomo di prelati nel Vaticano che dovrebbero abbandonare le loro comodità, che sono fatte anche di tante cose negative, per tornare veramente alla vita strana. Per me. A proposito di dinamismo, prendete il numero 9 di quel foglio che vi ho dato stamattina. Sì. Il regno di Dio è offerto a tutti, è un dono, è un regalo, è grazia, ma non è messo a disposizione su un piatto d'argento, richiede un dinamismo. Si tratta di cercare, di camminare, darsi da fare. L'atteggiamento della ricerca è la condizione essenziale per trovare. Bisogna che il cuore bruci dal desiderio di raggiungere il bene prezioso, cioè il regno di Dio che si fa presente nella persona di Gesù. È lui il tesoro nascosto, è lui la perla di grande valore, egli è la scoperta fondamentale che può dare una svolta decisiva alla nostra vita, riempendola di significato. Angelus del 30 luglio del 2017. Mi è veramente piaciuto molto l'intervento di Monica per il respiro universale, per il respiro in linea con quello che dicevamo anche un po' stamattina, che il regno di Dio va veramente oltre tutti gli steccati, tutti io sono dentro, io sono fuori, perché Dio è più grande di noi e qualunque cosa diciamo di Dio sarà sempre una parola penultima e mai ultima, come diceva Don Giorgis, no? Mi sembra veramente un approccio postmoderno a tutte le, problematiche che abbiamo oggi, in contrasto con quello che dicevamo stamattina di questa, di questo scritto sconvolgente di Papa Benedetto Emerito, no, di questi giorni, che invece è fermo a 70 anni fa, secondo me. E Papa Francesco invece vive nell'oggi, quindi si rende perfettamente consapevole di tutte le difficoltà che oggi i credenti, la Chiesa hanno, però guarda in avanti, non guarda alle spalle, no? Quindi davvero mi è piaciuto molto, Monica, ti ringrazio veramente. Anche anzi, se poi riesci a farci avere questi appunti, credo che potremmo poi farli avere a tutti gli altri, perché veramente mi è molto molto piaciuto, insomma. Quindi è una reazione così proprio sincera, e poi tutti i punti che hai trattato sono veramente molto, li condivido fino in fondo, insomma. Ci sarà anche Don Giorgis che credo che Don Giorgis in questo momento stia gioendo, perché dice: se Monica mi ha conosciuto, può darsi anche che in qualche modo io l'abbia aiutata. No, io ho amato molto la Bibbia attraverso di lui, tantissimo. Era già originale, si vedeva a suo tempo rispetto ad altri teologi biblisti. Era veramente già originale al suo tempo. L'ho apprezzato molto, molto, molto, molto. Ok, altri? Come faccio a sapere se io sono in una fase dinamica e non rigida come la struttura? Mi chiedo, no? Sì. Allora, premesso che non lo posso sapere quanto a te, posso dirlo quanto a me, e quanto a me mi dico: quando genero vita intorno a me, sono in una condizione vitale. Dove generare vita, non pensare che devo costruire una casa, ecco, generare vita nelle relazioni, nel mondo che, ecco, se sto generando vita, se passa attraverso di me vita, per quanto tu puoi, per quanto riesci, perché la salute, perché gli affanni, perché i pesi, perché facciamo i conti con tutto questo, ecco, se tu riesci a generare comunque, nonostante tutto, un po' di vita intorno a te, no? Che vuol dire raccogliere due fiori e portarla ad un'anziana che non mette mai il naso fuori perché non può più uscire, ecco, una roba così, no? Per dirti, non che uno deve dare la vita, che poi ci sono quelli che lo fanno, e mamma mia, che esempio che sono, no? Però ecco, se con un sorriso, se io direi che sei assolutamente nel solco, a proposito di primavera, che adesso si sta, no, preparando la terra per il dopo, no? Direi di sì, insomma. Adriana, stamattina hai detto del re, hai detto oggi o stamattina? Stamattina. Cos'è per te il regno di Dio? Ne ha visto dappertutto. Sì. Tra l'altro era molto. Ho sentito, era come se sentissi la voce di Giovanni, perché era proprio sulla linea di Don Giovanni. Penso che io non l'ho neanche conosciuto. Mm-hmm. Però trovo che le cose che ha detto lei oggi pomeriggio, con altre parole, in un modo un po' diverso, però la sostanza era la stessa, cioè io condivido in pieno come lui tutte le cose che ho sentito. Permesso che mi piacciono tutti questi interventi, a partire dal tuo, così, che ci pone appunto, ci chiede un cambiamento, e come dice qui è una roba non da poco, nel senso che fare questo cambiamento nelle scelte di tutti i giorni. Fidarsi in quel pezzetto che non gestisci è impegnativo, però anche lì bisogna allenarsi, sì. Secondo me dopo scelta porta scelta, sì. Diciamo, sì, sì. Però mi viene una domanda, non so se vado fuori tema, ma concreta, pratica, la butto lì ugualmente, a partire dalle strutture famose di dicevi addirittura cosa si inventa di diverso dalle parrocchie adesso, vabbè, delle piccole comunità, dei gruppi ci sono, chi ha la fortuna di frequentarli va benissimo, sta bene, io sono fortunata, sono una di queste a Torino, però poi non si riesce a contagiare gli altri, quindi c'è anche un problema di questo tipo, no? Che ti fa gioire nello stesso tempo preoccuparti. Però mi chiedo, a livello grosso di Chiesa Cattolica così, che ne è di sta commissione che aveva messo su già parecchi anni fa Papa Francesco sul diaconato femminile, che è il primo passo, piccolissimo, secondo me troppo, accontentiamoci, ma almeno quello c'è così, che potrebbe in qualche modo smuovere, perché secondo me è uno scandalo che le diacone non siano tali, che ci siano solo i maschi addirittura, non sarebbe nemmeno bisogno di una commissione, però bisogna aspettare tutti, partire da tutti, alla faccia del Cardinal Martini che parlava di chiesa di 200 anni più vecchia, ecco, magari voi che siete più vicini. Io ti dico quello che so, dunque questa commissione ha lavorato intorno, sappiamo che c'è una diaconessa, no? Nel Nuovo Testamento, adesso non mi ricordo come si chiama, mi aiuti, Don Febe, bravissimo, ecco, c'è una diaconessa nel Nuovo Testamento e in ragione di questa diaconessa che era presente nella chiesa delle origini si è cominciato un lavoro intorno a questo passaggio del Nuovo Testamento. So che la commissione ha consegnato al Papa i risultati di questo lavoro di commissione, che però non sono ancora pubblici. Ecco, del 2013, poco dopo. Guarda, su certe cose richiedono del tempo. Guarda, pensa che quando Giovanni Paolo II ha dovuto. Prima ha voluto evidentemente chiedere pubblicamente anche perdono delle incomprensioni legate al caso Galileo Galilei, ci sono voluti molti anni prima di arrivare a quello, quando la commissione era partita molto prima a lavorare sui testi che poi hanno portato alla missione comunque di responsabilità in qualche modo, insomma, chiaro che il caso Galileo è un caso particolare, il Papa non aveva firmato il documento, non tutti i cardinali c'erano, per cui c'era solo Sant'Uffizio, insomma, però ci sono stati degli ecclesiastici, no? Che hanno imposto la biura a un uomo di fede, insomma, uno scienziato, un uomo di fede, quindi c'è stato in qualche modo, ecco, una missione di incomprensione di quella, però ecco, per dire, non voglio fare tutta la storia, però si è arrivati dopo molti molti anni, qui si va a toccare qualcosa di molto particolare all'interno della Chiesa, quindi probabilmente il Papa, insomma, su questo vuole ancora riflettere, insomma, questo muove, no, molte cose, insomma, anche le forze sono in campo, sono tante, che magari non è facile per Papa Francesco, è il Papa, d'accordo, però insomma, quando chiede di pregare per lui, evidentemente insomma, mica poi da lassù dire adesso facciamo così e punto a capo, insomma, bisogna poi, giustamente non è Papa da solo, ma semmai è il Vescovo di Roma in comunione con gli altri Vescovi, ma sempre in comunione con gli altri Vescovi, per cui le cose evidentemente devono essere anche viste insieme con i suoi collaboratori, quindi tutto questo richiede tempo. Anche se parlava di Don Giorgis, tu c'eri quella volta, forse eravamo a tavola, un gruppetto, insomma, e si parlava del sacerdozio alle donne, e uno dice una cosa, dice l'altro, e tu Don Giorgis cosa pensi? Io sono contrario al sacerdozio alle donne. E noi siamo caduti da... ma Don Giorgis, ma tu che hai sempre detto, che insomma, che non è giusto, e no, è perché io sono dalla parte delle donne. Perché già il sacerdozio maschile è sbagliato. E non caricate le donne di una cosa che è cominciata male. Il sacerdozio, ancora più avanti. Noi lo facciamo, avevamo dimenticato che il sacerdozio primo è quello legale, quello, sì, del battesimo. Quello del battesimo. Quello della creazione, sì. Se sei creato, sei, sì, uomo donna, sei... Sì. Sì. Certo. Io mi ricordo che c'era rimasto impresso, ma guarda che, cioè, Gesù è laico, è solo sacerdote quando muore, là, spogliato della sacerdote, profeta e re, noi siamo nel battesimo. Sì. una battuta del genere scandalizza magari, perché io non voglio accusare che tutti noi preti siamo sbagliati, perché metterei anch'io fra quelli non vuole essere sbagliato. Però c'è un'intuizione molto profonda di un cambiamento di mentalità proprio. E di lì nascerebbero. Guarda, io amo moltissimo la Chiesa e mi fanno molta tenerezza i sacerdoti, perché sono in una fase di passaggio faticosissima, forze di vario tipo, insomma, li tirano un po' di qua e di là e non è semplice. Io amo molto la Chiesa, amo molto i nostri sacerdoti, capisco che sia veramente un momento difficile, ma un po' per tutti, ma per i sacerdoti li vedo, ecco, molti, ecco, fare fatica. Poi abbiamo sacerdoti illuminati che, insomma, invece evidentemente, ma qui passano, ecco, che stanno aiutando loro stessi, con fratelli, il popolo, insomma tutto, quindi anche noi laici, a traghettarci insieme verso un altro modo che non vediamo ancora, e quindi è difficile, insomma. Perché anche per il matrimonio dei preti mi sembra di ricordare che in certi passi del Nuovo Testamento ci sono delle indicazioni, i vescovi non si sposino che una volta sola, eccetera, eccetera. Cioè dicono delle cose che in pratica fanno capire che una volta, cioè all'inizio c'era il matrimonio, e allora a un certo punto poi sono state prese delle decisioni che da molte parti non vengono capite. È diventata una consuetudine intorno all'undicesimo secolo, poi il Concilio di Trento ha stabilito. Al giorno d'oggi viene dalla mentalità comune, viene un po' rifiutata. Ma la Chiesa anche su questo punto qui è ferma, come per il... Non mi pare che ci siano elementi da questo punto che ci siano elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso. È vero che oggi la Chiesa Cattolica, diverso rispetto al celibato, oggi la Chiesa Cattolica ha delle forme molto all'interno interessanti e devo dire anche interpellanti, perché abbiamo la Piana degli Albanesi in Sicilia, in cui ci sono sacerdoti in comunione con Roma, ma di rito greco ortodosso, che sono sposi e hanno figli. Così come abbiamo anglicani che sono passati alla Chiesa Cattolica, sono stati riordinati per una serie di questioni teologiche che vi risparmio, comunque sono stati ordinati sacerdoti, però avevano moglie e figli, non è che li lascia a casa, ovviamente, no? Quindi noi abbiamo situazioni di questo tipo nella Chiesa Cattolica, in cui ci sono preti cattolici non sposati e preti cattolici sposati con figli, perché provengono, io vi ho fatto due esempi, ma ce ne sono ancora altri. E poi c'è la Chiesa Ortodossa, che almeno per i pope dà la possibilità prima del matrimonio, prima dell'ordinazione, scusate, di sposarsi oppure no. Gli eparca no, i vescovi no, però vengono scelti tra i non sposati, però i pope sì, se lo vogliono. Quindi c'è, gli ortodossi, no, i fratelli ortodossi sono i più vicini sicuramente a noi rispetto al mondo protestante, almeno su questo tema, rispetto al mondo protestante e al mondo anglicano. Quindi è tutto un mondo variegato, ecco. Papa Francesco non si è espresso, mi sembra, anche un momento suo, non c'è stato qualcosa? Non mi sembra che abbia... Non era il momento, non sono ancora maturi di tempo. Ha detto che riguardo al sacerdozio femminile, che l'argomento era chiuso. Ecco, perché c'è stata con Mulieris Dignitatem di Giovanni Paolo II l'enciclica, che ha una sua forza in quanto documento pontificio, si sono... insomma affermate, ecco, delle cose che ad oggi sono vincolanti e rimangono vincolanti. Chiaro che si devono scegliere altri percorsi, altre strade di riflessione sul ruolo della donna nella Chiesa. Lui ha detto la Chiesa è un termine femminile, no? Ecco, questo è interessante, così come altre affermazioni. Quindi il fatto di aprire questa commissione per il diaconato forse può voler dire trovare un percorso di altro tipo rispetto al ruolo della donna nella Chiesa. è un cantiere aperto, direi, è un cantiere aperto. Vi questo ci fa sperare. Vi voglio raccontare un'altra storia vera che è successa a me. Allora, io ho fatto parte del sinodo diocesano per 3 anni, abbiamo lavorato, e ho avuto modo di conoscere un giovane prete, ma proprio bravo, proprio una 40 anni, che si era sempre occupato di pastorale giovanile, dinamico, intelligente, cioè uno che ci sapeva fare con le cose di chiesa. Poi l'hanno nominato parroco di una parrocchia lì di Novara. Tra l'altro, tutti gli anni, in occasione del 24 marzo, organizzava delle belle cose in ricordo di Oscar Romero, insomma, ha fatto delle cose molto interessanti. 2 mesi fa è venuto fuori sul giornale che Federico Sorrenti ha deciso di lasciare il ministero perché si è innamorato di una catechista della parrocchia, no? E quindi il vescovo al sabato sera è andato in parrocchia e ha comunicato alla comunità che il parroco dal giorno dopo non sarebbe più stato parroco, perché ha deciso di... E ha usato delle parole esclusivamente sul negativo: notizia sconvolgente, crisi nelle persone, nei preti, nella parrocchia, eccetera, eccetera. Io non ci ho più visto, e ho scritto un articolo dove io fossi stato al tuo posto, avrei ringraziato Federico Correnti per i 16 anni di servizio encomiabile che ha fatto per la diocesi, i 2 anni che ha lavorato in parrocchia facendo delle cose straordinarie, ristrutturando l'oratorio, facendo delle iniziative, eccetera, eccetera. E quindi avrei pubblicamente riconosciuto il servizio preziosissimo che aveva fatto. Proprio perché è un servizio prezioso, continui a farlo da persona sposata, eventualmente andando ad abitare in una canonica di una chiesa abbandonata da un sacco di anni. No? Ecco, ovviamente è un discorso assolutamente, però è il minimo che oggi potremmo fare. E invece ancora oggi i preti che lasciano il ministero perché si sposano vengono, Leo tu mi dici, emarginati, completamente emarginati. Quindi ho detto, ha studiato teologia, baccalaureato, devo forse aver fatto anche qualche dottorato, dal punto di vista della preparazione è il massimo, no? Continui a fare le cose che ha sempre fatto. Ed è interessante che l'unica persona che lo ha ringraziato pubblicamente sul giornale, sapete chi è? È una donna del consiglio pastorale parrocchiale, che l'ha ringraziato per le cose che ha fatto in quella parrocchia in 2 anni. Ecco, io mi chiedo a questo punto, come si fa? Tu prima hai detto, io amo la chiesa, come si fa amare una chiesa che non rispetta la libertà delle persone di cui è composta? Perché la chiesa dovrebbe essere... Cioè, io lo trovo come, non riesco a concepire il celibato, è una forma di violenza, perché costringere una persona a non vivere la propria sessualità penso che sia una delle cose più brutte della vita. Cioè, io mi chiedo come si fa a frequentare e ad amare, tanto più amare, una chiesa di genere. Ma si rendono conto che il contesto in cui si trovano ad agire o comunque... È lontana millenni da come ragionano loro. Siamo fermi al Medioevo. Ma voi che lavorate in questo studio, io non frequento più la chiesa, lo dico, sono anni che non frequento la chiesa. Sono un po' di anni che non vado più a messa, ma perché io lo vivo, cioè non so come dire. Le persone vanno rispettate nella loro libertà. Tu non puoi fare tante prediche, tante, e poi venire a dire, ma ci rendiamo conto che una manovra del genere, le ripercussioni che ha sulla società, ma come ha reagito lui, perché avremmo reagito quasi tutti così. Voi siete pazzi, a questo ragazzo io faccio gli auguri per la sua nuova vita e lo ringrazio per quello che ha fatto. Non vado a bastonarlo, perché comunque se lo bastoni vuol dire che sei una persona insensibile che non rispetta la libertà degli altri, e come fai a essere un membro della Chiesa? Cioè, scusate tanto. A me pare, scusate, a me pare però che cioè io mi scontro anche, cioè dentro di me vivo anche un po' questa esperienza, e sto cercando sempre di più di separare quello che in italiano ci ingabbia dentro una stessa parola, che è Chiesa, in cui sovrapponiamo la struttura gerarchica, che è vero formalmente la parola ufficiale, con invece le persone che a vario titolo, nella loro diversità, si mettono in qualche modo in gioco perché hanno scelto Gesù Cristo come loro appunto interlocutore interno, diciamo. E credo che da questo punto di vista possiamo in qualche modo forse un po' venirne fuori, nel senso che io anche non frequento parrocchie, sono una molto marginale da questo punto di vista, più, come dire, formale. Però mi sto rendendo conto che anch'io sono Chiesa nel momento in cui scelgo appunto Gesù Cristo come interlocutore, e quindi cerco di vivere questa cosa nella condivisione con altre persone. Cioè noi qui adesso siamo una Chiesa che tenta di ripensarsi, e quindi credo che queste siano delle esperienze, magari appunto piccoli semi, ma che possano davvero poi germogliare piano piano, allargarsi e chissà inglobare anche chi è spaventato e che quindi si radica dentro le proprie certezze pensando di potersi aggrappare lì invece che sporgersi oltre, no? Come diceva Monica prima, e affidarsi allo spirito dentro un oltre, invece che rintanarsi dentro di sé e quindi poi ovviamente infragilirsi inevitabilmente. Allora, capisco, perché anch'io in un certo senso lo dico così, però questa per me, o per me, forse per te, è una, come si può dire, è un'area felice, è una cellula che forse di vita che funziona, che fa la sua funzione. Ma io più vivo questo, più vedo sempre il contrasto con la Chiesa. Ah, certo. Quello che mi fa dire, ma chi se ne frega? Cioè, io faccio questo, sto bene così, sto bene come persona, le rispetto, cioè vivo tutta la mia... Però le vivo, e qui, ecco, qui forse è stato allora un atteggiamento egoistico, ma io sto bene, vivo bene per me, e cerco di vivere bene con quelli che... Che ti porta anche a dire, ma io di questa Chiesa qui non me ne frega niente, cioè non ne faccio... Non mi manca. Non mi manca, credo. Io aggiungerei solo una cosa, non rispondere, la domanda è proprio soltanto finalizzata la domanda, ma a te piacciono tutti quelli della tua famiglia? Nel senso che tu ci vuoi bene a tutti quelli della tua famiglia, oppure nella tua famiglia, come nelle famiglie di tutti, c'è qualcuno che ti piace un po' meno, lo sopporti un po' meno, lo capisci un po' meno, però fa parte della famiglia. Ecco, per me la Chiesa è la mia famiglia, che è fatta di persone con cui sto un po' meglio, sto bene, e altre con cui sto un po' meno bene, però la tua famiglia non te la sei scelta, e ci vivi, ci convivi, ci stai, insomma speri, no? che qualcuno rinsavisca, insomma, che insomma, no? che qualcosa cambi, che qualcosa migliori. Per me con la Chiesa è questo, no? Per cui sì, ci sono tutte queste cose che voi dite molto bene, però c'è altrettanto di buono, se non di più. Questo è uno spazio, citavamo l'Atrio dei Gentili, citavamo anche quelle parrocchie che stanno facendo un bel percorso sul territorio di qualità, no? Di gente libera, educano la libertà delle scelte delle persone. Ce ne sono di queste parrocchie, perché non vorrei con questo dire che tutte le parrocchie non funzionano, assolutamente. Quindi ci sono questi elementi assolutamente positivi, e poi c'è dell'altro, come nelle famiglie. Ecco, però vorrei aggiungere, a me sembra un'aggiunta, tu mi dirai se il rito, cosa che ad esempio nella famiglia, sì, magari ci sono dei meccanismi, ma non c'è l'influenza del rito che c'è invece, ma no, nella Chiesa, no, no, e nelle, non è vero, anche nelle famiglie, potrà delle cose che dici, ma perché? Perché devo fare? Pranzo di Natale. Ecco, però, con uno zio che non sopporti, perché magari su quel terreno là lui ne ha approfittato, ha preso un pezzo più grosso di quello che ha preso invece, eppure siamo lì intorno al tavolo, sorrisi e quant'altro. Eppure quella volta quel pezzo di terra l'ha preso, ma non gli spettava mica tanto, no? Oppure è venuto a casa, ha preso le tazzine di mamma che io non ho trovato dopo che mo... eccetera, eccetera, eccetera, no? Eppure sei intorno al tavolo e dici, io provengo da lì. Provengo da lì. C'è Dario. Mi sembra del 2000, se non ricordo male, Alberto Mazzi, che quasi tutti voi conoscete. Dove? Alberto Mazzi. Ah, sì, sì. Eravamo giù ad Assisi alla settimana che ha fatto e una persona gli ha chiesto, visto che lui ce l'ha anche con la struttura chiesa, non è che dica che tutto va bene, gli hanno chiesto come mai lui rimaneva lì. E lui gli ha risposto, perché è la struttura dove c'è più libertà. Cioè, detto da lui, mi lascia un attimino, lui mi fa pensare, ragionare. E poi un'altra cosa, anche quello che tu Andrea hai detto, io lo condivido in pieno. Secondo me bisognerebbe entrare nella realtà, esserci dentro. Perché da me sono venute delle coppie che si sono separate a parlarmi. Normalmente, non so come mai, nella coppia, quando si separano, vedono solo quello che non funziona, che, e non riescono a vedere che se sono stati insieme, delle cose belle ci sono state, perché se non stavano insieme. Certo. Però in quel momento lì la coppia vede solo quello che non funziona e c'è l'odio, massimo odio per l'altro, questo quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre. Io credo che in quella situazione è vero quello che tu hai detto, che sarebbe, perché è anche la mia modalità di vedere anche il bello che mi ha dato l'altro. Però da un lato dico, forse in quella situazione, che cammino ha fatto la persona che sta parlando? Io stamattina vi ho detto una frase che mi ha colpito molto, di una lezione che aveva tenuto Franco Mosconi a febbraio, che era sulle letture di oggi tra l'altro, dove diceva che prima di cambiare le strutture, cambiamo noi stessi e poi le strutture cambieranno. Ma io mi chiedo, io quanto sono disponibile a cambiare? Perché è facile dire la Chiesa dovrebbe, la struttura Chiesa, io sono d'accordo su questa cosa, dovrebbe cambiare. Ma se guardo me, io quanto sono disponibile a cambiare nelle mie piccole cose quotidiane? Perché anch'io ho un'influenza poi, perché ho la famiglia, sul partner, sui figli, sul mondo del lavoro ho un'influenza, perché bene o male le abbiamo. Quindi io metterei sempre anche, terrei conto di questo. Questo non vuol dire che io condivido quello che fa la gerarchia, per carità, però lo metterei anche in conto, e io ero uno di quelli che ha sempre dato conto alla gerarchia in una maniera spaventosa, sono un sessantottino per cui avevo certe idee io, però secondo me oggi mi dico, forse anche tenendo conto di quello che tu dicevi oggi, è proprio questo, non so, l'accoglienza, quella di Gesù. Forse è quella che ci può aiutare, fare spazio. Se io comincio a fare piano piano, come posso fare spazio dentro di me, forse possono modificarsi le cose, le relazioni. È un cammino però in prima persona molto difficile. Ve lo garantisco, perché è quello che sto tentando di fare da anni, con piccolissimi passi. Certo, aspetta. Volevo aggiungere una cosa, che mi è venuta in mente una risposta che Don Squizzato aveva dato, eravamo a San Biagio in un intervallo così, stavamo parlando, e uno dopo aver sentito quello che lui diceva gli ha detto, ma scusa, tu come fai a continuare a fare il prete? Gli aveva detto, no? E lui aveva risposto, perché io considero la Chiesa una madre, io senza la Chiesa non avrei conosciuto Gesù, e quindi come una madre vera, non è detto che debba essere perfetta, una madre vera ha i suoi difetti, ha i suoi problemi, però io che le voglio bene e cerco in qualche modo, avendo rapporto con lei, di migliorarla, cioè di farla migliorare, di farla andare avanti, non di rinnegarla. E mi era piaciuta questa risposta. Sì, condivido. Io penso che ci vuole uno o l'altro, perché se tutti agiscono così, la Chiesa va avanti come sempre, ancora altri secoli. Invece se come adesso c'è sempre meno gente in Chiesa, le Chiese devono chiudere, non c'è sempre meno sacerdoti, allora si comincia a interrogarsi. Io penso che forse tutti e due decisioni sono giuste, di certo. Stare dentro e di uscire. Cioè, perché altrimenti se nessuno esce, cioè, testimonio. Ma poi soprattutto, Beatrice, noi dobbiamo imparare a parlare in modo rispettoso, però dirle le cose che pensiamo ai nostri vescovi, ai nostri preti. Il silenzio, no? Lo dicevamo anche, è pericoloso. Come? Lo dicevo anche prima, il silenzio è pericoloso. Il silenzio è pericoloso. Sì. Perché il silenzio altrimenti viene interpretato come assenso, e invece è dissenso. Se è un dissenso, in modo... Cioè, io questa roba qui lo faccio sistematicamente, poi i frutti lasciamo perdere. Però, perlomeno, si rendono conto che ci sono delle persone che pensano certe cose che le dicono. Io al vescovo non ho mai dato del monsignore, l'ho sempre chiamato fratello, per esempio, no? E lui mi chiama fratello Andrea, e va bene, no? E quindi... Bisogna che nella Chiesa noi, facendoci aiutare da persone come Monica, perché la scoperta che io personalmente ho fatto da quando Don Giorgi si è morto, avendo accettato la sua invito a continuare la sua attività, è che abbiamo trovato delle persone che ci stanno aiutando in modo favoloso, e ci sono. Non è vero che non ci sono, bisogna andarle a cercare. E quindi, dato che sono disponibili e ci sono, sta a noi fare quello che Luciana ha fatto un po' voi a Torino, insomma, no? Piccoli gruppi dove la Bibbia conta, dove le persone contano, dove ci si trova non solo per discutere ma anche per operare, eccetera, eccetera. Io credo che sia questa la Chiesa del futuro. E poi se riusciamo anche a convincere qualche vescovo a sposare queste tesi, ben venga, però viviamo il battesimo prima di tutto noi, e viva Dio, insomma, no? Se convinciamo a che ora facciamo l'Eucaristia? A che ora facciamo l'Eucaristia? Tu aspetta ancora. Possiamo cominciare? Comunque ci sono sacerdoti che la domanda sulle chiese.